Questa è un po' una costante della repressione in Egitto, quello di colpire proprio la comunità LGBTQ, ma in realtà è anche peggiorata questo tipo di attacco diretto dopo il colpo di stato militare del luglio 2013. Da quel momento è stata fatta proprio un'attività di mediatizzazione della stigmatizzazione dell'omosessualità in Egitto, in particolare perché l'esercito, reprimendo gli islamisti, i fratelli musulmani, i gruppi che sono vicini a queste due politica, l'islamismo politico, hanno voluto accreditarsi con una forma di difesa della moralità, e per questo i primi ad essere colpiti è stata proprio la comunità LGBTQ egiziana. Ci sono vari casi che dobbiamo citare degli ultimi anni. Uno, forse quello più importante, è il Rainbow Flag, conosciuto come Rainbow Flag, cioè la bandiera dell'orgoglio LGBTQ, che è stato esposto in un concerto di una band libanese che si chiama Mashrou Leila. Sono state arrestate 16 persone e le accuse contro queste persone andavano da relazioni sessuali non ordinarie a inciting the pushery, cioè a veramente accuse pretestuose contro gli appartenenti alla comunità LGBTQ egiziana. Precedentemente Rayan Abdel Sattar, un parlamentare egiziano, aveva proposto una legge per criminalizzare l'omosessualità. In Egitto non c'è una legge che criminalizza l'omosessualità, questo è presente in Tunisia, anche se poi dopo le rivolte del 2011 in Tunisia c'è una certa apertura anche su questo campo, e quindi evidentemente ancora una volta la comunità LGBT è stata attaccata anche da un punto di vista politico e dovrebbe essere formalizzato, però poi non è arrivata un'approvazione vera e propria di questa proposta di legge. C'è Mona Iraki, e questo è un altro caso molto interessante, perché questa giornalista si è recata in un hammam pubblico, e anche gli hammam sono alcuni dei luoghi di ritrovo più comuni per la comunità LGBTQ egiziana, e questo hammam, e questo caso è famoso e noto con Sidor Hammam, è stato mostrato il filmato di alcuni uomini che si recavano in questo hammam, e anche questo è servito, attraverso anche la mediatizzazione del caso, a stigmatizzare tutta la comunità LGBTQ egiziana, che ricordiamo è stata presente nelle proteste del 2011 in piazza Tahrir, anche se non ufficialmente, però molti attivisti di questa comunità hanno partecipato alle proteste di piazza. Un altro caso molto noto è quello del Nile Boat, della barca sul Nilo, dove si è svolto un matrimonio gay, che evidentemente in Egitto sarebbe stato un caso veramente eclatante perché non c'è una legge su questo, e quindi anche lì ci sono stati arresti sommari di persone che hanno inscenato questo matrimonio gay sulla Nile Boat. Vari attacchi sono stati resi noti da alcuni giornali che in passato erano indipendenti, ma che poi gradualmente sono stati sempre più controllati dalle autorità egiziane, per esempio attacchi che hanno colpito la comunità transgender al Cairo, e attacchi mirati, quindi molte di queste transgender sono state arrestate, hanno subito violenze, maltrattamenti in prigione. Un'altra legge che era stata proposta dopo il 2013 era quella di restringere, limitare i diritti dei gay stranieri che vivevano in Egitto. Anche questa legge è stata molto criticata. Veramente difficile dire se nel tempo in cui è stato presidente della Repubblica Mohamed Morsi, cioè l'islamista leader dei fratelli musulmani, le cose fossero peggiorate per la comunità LGBT egiziana. In realtà non è così, perché non ci sono stati dei provvedimenti presi dagli islamisti, dai fratelli musulmani, mirati rispetto alla comunità LGBTQ, anche se un discorso generale dell'islamismo politico ovviamente va contro i diritti dei gay. Nel 2011 appunto alcuni attivisti parlavano addirittura di gay pride in alcune manifestazioni che si sono svolte contro l'allora regime di Mubarak, e poi successivamente, dopo la fine del regime di Mubarak, quell'anno nel 2011, però ricordiamo che gli attivisti, ma anche le tante donne, quindi attivisti LGBTQ e tante donne che partecipavano alle manifestazioni e alle proteste, sono stati attaccati, colpiti da violenze, sono stati svolti test per la virginità alle donne, test anali a molti uomini che erano considerati come attivisti LGBTQ, quindi evidentemente la partecipazione di queste comunità e anche delle donne, che poi era una partecipazione di massa perché tantissime erano le donne presenti in piazza, è stata largamente prevenuta da parte della polizia e delle autorità egiziane, proprio per limitare il numero di proteste. E poi c'è questo caso, che è un caso eclatante, quello della Queen Boat, che risale al 2001, in cui vennero arrestate decine di persone che si trovano su questa barca ormeggiata sul Nilo, e quindi evidentemente poi vennero fatti dei test anali. Quindi evidentemente colpire la comunità LGBTQ fa parte della strategia del regime ormai da decenni. Inizialmente il regime di Al-Sisi si era presentato presentato come laico, no? Proprio anche in contrapposizione a Morsi, invece sta facendo un uso strumentale dell'omofobia per accreditarsi con diversi settori egiziani? Sì, questo è una delle caratteristiche, non solo questo. Per esempio anche l'uso che viene fatto della difesa dei diritti delle donne. Al-Sisi, appena arrivato al potere, si è mostrato come difensore dei diritti delle donne. Ricordiamo un caso eclatante, che è quello proprio di limitare o addirittura rendere illegale le mutilazioni genitali femminili, e poi in generale di andare a visitare. Infatti ci sono state alcune visite di Al-Sisi a donne che erano state attaccate durante strada o comunque in luoghi pubblici. Però allo stesso tempo le molestie contro le donne non sono per niente diminuite, anzi sono aumentate, e la stessa cosa si può dire per la comunità LGBTQ, che proprio per questo tentativo dell'esercito, dei militari, del regime militare di Al-Sisi di mostrarsi con un volto morale o moralista, diventa target di repressione e una forma di tentativo di trovare delle sentenze, delle accuse esemplari per colpire l'intera comunità LGBTQ egiziana. Quindi evidentemente dopo il 2013 non è possibile fare attivismo LGBTQ in Egitto. Ci sono dei passi avanti che sono stati fatti dalla comunità LGBTQ in Egitto, per esempio con l'uso di Grindr e di altri strumenti, ma non da un punto di vista di mobilitazione politica, perché non è possibile per questi attivisti di fare delle campagne in maniera aperta, anche se ci sono tanti riferimenti sui social network, alcuni attivisti che comunque fanno delle loro campagne, soprattutto attivisti che sono andati fuori, che sono della diaspora, che vivono in Europa, che vivono negli Stati Uniti, che gli fanno riferimento alla campagna per la difesa dei diritti LGBTQ in Egitto, ma da un punto di vista della vita quotidiana della comunità in Egitto, dopo il 2013 le cose sono molto peggiorate, si sono aggravate e poi hanno subito anche questa stigmatizzazione attraverso i media e tanti, per esempio, dei luoghi di ritrovo della comunità LGBTQ egiziana. Pensiamo, prima abbiamo parlato degli hammam, ma anche ci sono dei cinema dedicati, ci sono alcune strade del Cairo, c'è il caffè Borsa, sono stati chiusi. Un esempio eclatante è proprio questo Borsa Caffè, che si trovava nel centro del Cairo, che è stato chiuso dopo il colpo di stato del 2013, e quindi evidentemente poi la comunità ha dovuto spostarsi in altri luoghi della città o andare in luoghi turistici che